24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:22 minuti, eccoci, parte una nuova settimana di 24 mattino, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Di cosa parleremo oggi nel nostro sondaggio alle 8:30? Beh, parliamo di queste ordinanze dei sindaci sceriffi, così definiti, che sono state bocciate dalla Consulta, le ordinanze anti-accattonaggio, anti-prostituzione, quelle del pacchetto sicurezza. Che ne pensate? È giusto così? Ne parliamo più tardi, alle 8:30. Ed ora iniziamo da cosa? Dalla lettura dei giornali in edicola. In primo piano. In questo lunedì 11 aprile le aperture sono soprattutto dedicate all'immigrazione, i timori del Quirinale sull'Europa per il Corriere. Profughi, l'Europa boccia l'Italia, così Repubblica. Rifugiati, l'Europa gela l'Italia, così La Stampa. Il Sole 24 Ore apre sulle tasse occulte dei comuni, asili, mense, parcheggi, rifiuti, incassi in crescita del 13%, mentre per il Messaggero viene messo in primo piano l'appello del presidente di Confindustria che lancia questo allarme: imprese mai così sole. Vedremo le altre aperture più avanti, vado subito alle segnalazioni da cui voglio partire. La prima la trovate sulla Stampa. Attenzione voi che siete di Roma e ci state ascoltando. Roma sarà distrutta da un terremoto l'11 maggio. Leggo il titolo della Stampa, pagina 20, non è che mi sono ammattito. E tra un mese, quindi, esatto. La profezia di un sismologo fai da te impazza su internet, con la Protezione Civile che ha dovuto smentire l'allarme. La profezia l'avevo già letta da qualche parte, per la verità. La profezia di tale Raffaele Bendandi, che è morto nel 79, era di Faenza, nato nel secolo, due secoli fa, 1893, è stato uno pseudoscienziato, non si capisce cosa voglia dire, uno pseudoscienziato con una teoria sui terremoti che non è accettata dalla comunità scientifica. E il problema è che Bendandi qualche volta in passato ci aveva azzeccato, tipo prevedendo, così dicono, il terremoto della Marsica del 1915, 30.000 morti ad Avezzano, il terremoto di Senigallia del 2 gennaio 24, 1924, in Friuli 6 maggio 76, così dicono, dicono che ci avesse azzeccato. Secondo una teoria cosmica, secondo dati da me raccolti, il sisma avviene quando nel giro mensile di una rivoluzione lunare l'azione del nostro satellite va a sommarsi a quella degli altri pianeti. Questa è la teoria pseudoscientifica di Bendandi, secondo il quale, secondo questa teoria, l'11 maggio, tra un mese, ci sarà un terremoto a Roma. La Protezione Civile ha dovuto smentire. Qualche buon tempone sta mettendo anche dei cartelli, li affigge qua e là, dicendo: cari cittadini di Roma, dormite un paio di notti prima dell'11 maggio e tre notti dopo fuori di casa. Qualcuno sotto dice: non ci credo, ma mi adeguo. Si sta organizzando qualche gita fuori porta. L'11 maggio è un mercoledì, per chi volesse appuntarselo sull'agenda. In ogni caso, sulla Stampa, pagina 20. La seconda segnalazione da Repubblica, pagina 22, è questa. Oh, poi dopo mi accusano di dire io sono contro Facebook. No, non è che sono contro Facebook, ma quando leggo certi articoli un po' da pensare viene. Sindrome Facebook, quando troppi amici ti fanno sentire solo. Si chiama FOMO, è l'acronimo di Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori. Ne parla Federico Rampini, che racconta: quando i miei ex compagni della scuola europea di Bruxelles si ritrovano a Roma e io sono qui a New York, mettono subito le loro simpatiche foto delle serate riprese dagli iPhone, mi raggiungono e io mi sento un po' tagliato fuori. Ho scoperto che si tratta di una vera e propria malattia. FOMO, la paura di essere tagliati fuori, che può colpire, secondo alcuni ricercatori, chi ha troppi amici su Facebook, ha questa mania di essere sempre attaccato a Facebook e vede che magari mentre lui è a casa da solo in una serata piovosa ci sono degli amici che stanno mettendo delle foto in 3 o 4 o 5 che si ritrovano in un ristorante, in un locale, in una discoteca, e allora viene questa ansia, questo timore di dire: ecco, vedete, i miei amici stanno facendo qualcosa, io sono tagliato fuori da questo. FOMO. ci inventiamo anche queste nuove malattie grazie a Facebook. No, ma poi dico, andate sul nostro sito di Facebook, ci siamo anche noi, su 24 Mattino ci trovate, bello, tutto molto bello, la tecnologia è importante, però insomma quando si leggono queste cose, la malattia, perché uno si sente tagliato fuori, perché gli amici fanno qualcos'altro e tu non lo sapevi e lo scopri vedendo delle foto su Facebook, insomma un pochino da pensare c'è su questa diabolica invenzione planetaria. Allora, ci fermiamo con la pubblicità e il meteo e poi ripartiamo dalla politica, l'immigrazione, l'allarme del presidente di Confindustria sulle imprese lasciate sole. In primo piano. Allora, partiamo dal tema immigrazione, che è il tema sul quale aprono Corriere, Repubblica e La Stampa. Oggi ci sarà una giornata importante perché si incontrano i ministri degli interni dell'Unione Europea e c'è il gelo dell'Unione Europea, come titola il Corriere a pagina 3, permessi temporanei, gelo UE non validi in area Schengen. Il tema è quello, l'Italia dà i permessi di soggiorno temporaneo, 3-6 mesi ai soprattutto tunisini in Italia per andare all'estero, ma prima la Francia, poi la Germania, ora l'Unione Europea dicono attenzione, questi permessi temporanei non danno il diritto automaticamente di viaggiare nell'area Schengen. Maroni dice una risposta che non ci sorprende, insomma oggi viene definito un vertice con battaglia, così almeno a pagina 3 della Stampa. Maroni non cede, oggi sarà battaglia. Tra l'altro c'è una... qualcuno l'ha definita una buttad, qualcuno la definisce una proposta più seria. Il ministro del riforme leghista Calderoli dice: sapete che c'è? Facciamo, riportiamo a casa i soldati, soprattutto dal Libano, per difendere i nostri confini. Calderoli della Lega, a pagina 2 del Corriere, ma anche sulla Stampa, viene dato ampio risalto a questa idea. Che cosa ci fanno i nostri soldati in Libano non si sa, non l'ho ancora capito, dice Calderoli, riportiamoli a casa e difendiamo i confini. Tra l'altro tutti questi sono spunti per un'intervista che Emma Bonino, che è vicepresidente del Senato, fa alla Stampa, pagina 3. Berlusconi non può trattare l'Europa come un taxi, questo secondo Emma Bonino è l'atteggiamento del Premier e del governo italiano. L'Italia non può pensare che l'Europa sia un taxi dove si sale quando serve e si scende quando non si ha più bisogno. E come definisce invece la proposta di Calderoli di ritirare dal Libano soldati per proteggere i nostri confini? Non c'è limite ai vaneggiamenti, così Emma Bonino. Mentre Luca Zaia, il governatore del Veneto, viene intervistato dal Messaggero a pagina 5. La sinistra non dia lezioni, l'Europa non è autorevole. Su questo tema il governatore del Veneto, dopo aver definito il comportamento del presidente di Sarkozy della Francia ignobile, ha violato gli accordi di Schengen ripristinando la dogana tra Italia e Francia. E poi ne ha anche per D'Alema, che vuole impartirci lezioni parlando del Kosovo. Sono due situazioni completamente diverse. Se Italia e Tunisia fossero confinanti via terra, l'impatto sarebbe molto più soffe. Poi ci sono ragioni culturali a rendere diverse le situazioni. Di che tipo? Chiede Renato Pezzini del Messaggero. Sentite la risposta di Zaia. Un uomo dell'est europeo, per religione, abitudini, valori, è molto più assimilabile. Invece i tunisini, tanto per cominciare, pretendono che tu non dia loro carne di maiale da mangiare. E poi non vede come hanno ridotto Lampedusa? Sono abituati a buttare la roba fuori dalla finestra a casa loro. Figuriamoci quando vengono qui. Non vede come fanno? Noi gli diamo una mano e loro sputano nel nostro piatto. Così Luca Zaia, intervistato dal Messaggero. Comunque oggi il tema immigrazione sarà al centro di questo dibattito dei ministri degli interni europei che si riuniscono. Io voglio invece arrivare alla politica italiana. La politica italiana è dominata su tutti i giornali, su tutti i quotidiani, da che cosa? Da una domanda che tutti i quotidiani, ripeto, tutti, da centro-sinistra a centro-destra. Tanto che a me ha colpito molto nel weekend Libero, ha titolato così, sabato credo, ma Silvio è bollito, riferito al presidente Berlusconi. Allora, tutti i giornali si interrogano su questo. Il Popolo della Libertà, il partito di Berlusconi, sta per implodere in una serie di risse, correnti interne, eccetera. Anche ha colpito molto, e tutti i giornali oggi riferiscono, il fatto che Giuliano Ferrara ieri sul Giornale ha, sotto forma di sogno, del tipo ho fatto un sogno, ha raccontato che in questo sogno Silvio Berlusconi potrebbe mollare tutto. Ferrara fa il portavoce, Silvio è stanco, può mollare. Non si placa lo scontro nel PDL, così il quotidiano nazionale. Ma guardate tutti i giornali, pagina 8 del Corriere, nel PDL dopo le liti, timori, appelli all'unità. Per Repubblica cene di correnti e pugnalate, il PDL sull'orlo dell'abisso. Per La Stampa, PDL, Berlusconi mette Tremonti nel mirino. E anche il giornale, la scossa di Ferrara sul PDL, premier caustico, quale partito? Insomma, la situazione è che pare che ci sia un PDL con alcune correnti nell'occhio del ciclone. Una è quella di Scajola. Scajola che ai suoi dice al Corriere della Sera, o meglio dice ai suoi e lo riporta al Corriere della Sera, ma vi pare che potrei mai creare problemi su un voto vitale per Berlusconi? Il voto vitale è quello mercoledì sulla prescrizione breve, un voto sul tema della giustizia. Però sta di fatto che ci sono delle cene anche segrete tra ministri, per esempio Claudio Scajola, il Corriere dice... sta muovendosi per cercare di ottenere per sé o per uno dei suoi la nomina di un coordinatore unico. Altero Matteoli, mercoledì si vedranno i parlamentari che hanno in Altero Matteoli il loro punto di riferimento. Domani sera invece si vedranno i parlamentari della componente del PDL che fa capo al sindaco di Roma Gianni Alemanno. Insomma, ci sono delle cene, delle correnti, qualcuno dice. Per esempio, secondo Repubblica, in una cena Alfano avrebbe detto Tremonti ormai nemmeno mi saluta più. Secondo La Stampa e secondo il giornale è proprio Tremonti nel mirino. Secondo il giornale Berlusconi avrebbe detto Tremonti a questo punto va ridimensionato. Insomma, ufficialmente magari si butta un po' di acqua sul fuoco, però sotto sotto tutti i giornali raccontano di un partito che è un po' in una forte fase di tensione, tanto che Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato del PDL, in un'intervista al Corriere a pagina 9 dice: non è un mistero che a dare il là alle polemiche interne è stata un'intervista al Corriere a Dell'Utri, nella quale si criticava Scajola, il quale naturalmente si è arrabbiato e in un clima che via via si è fatto sempre più teso si è arrivati a episodi di nervosismo come quelli che hanno coinvolto lo stesso Scajola e la Russa, questo alla Camera. Gasparri dice, insomma, è tutta colpa degli ex di Forza Italia, ricordiamo questo partito che è nato dall'unione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Anche il ministro Prestigiacomo, intervistato dal Messaggero da Mario Aiello a pagina 3, dice: ora serve una svolta nel partito, è una fase molto, molto delicata, c'è la campagna elettorale, la crisi libica, l'assalto giudiziario al premier. Certo, il dopo Berlusconi è un'aspirazione di chi non riesce a battere Berlusconi, non una prospettiva politica al momento ipotizzabile. Sta di fatto che c'è molta, molta tensione. Intanto oggi Berlusconi è atteso, pare alle 9:30, in tribunale, udienza Mediaset, insomma in film. Silvio prepara lo show, ecco cosa dirò ai giudici a pagina 3 del giornale. Tra l'altro si rianima quella che era stata definita la clac per il premier in tribunale. Il Corriere annuncia che a pagina 11 dovrebbero essere ora di più, con anche dei pullman fatti arrivare da Mantova, da Cremona, che ha promesso l'arrivo di pullman di supporter di Silvio Berlusconi, ordinate anche 1000 panini al salame. E dunque, insomma, pare che la clac per Silvio Berlusconi questa volta possa essere anche ben più numerosa rispetto alla prima occasione. La Santanchè, il sottosegretario Santanchè, annunciando la manifestazione di supporto a Berlusconi in tribunale, dice: non è giustizia, è politica, rispondiamo con tutti gli strumenti a disposizione. Mentre voglio segnalare quello che il secolo XIX ha fatto intercettando, a pagina 6, Veronica Lario, l'ex moglie, insomma separata da Silvio Berlusconi. Ieri era a Genova, al Teatro della Corte, per assistere a uno spettacolo di Ibsen, uno spettacolo che si intitola Casa di Bambola, è interpretato da Mariangela Melato con la regia di Luca Ronconi. E tra l'altro qualcuno fa notare anche, insomma, la trama di questo spettacolo abbastanza emblematica, no? È la storia di Nora, una donna che attraverso un doloroso percorso di maturazione decide di lasciare il marito dopo averne scoperto la meschinità e l'ingratitudine, questo nel dramma di Ibsen. Ebbene, Veronica Lario viene un po' seguita dal secolo XIX con Patrizia Albanese, che si mette le sue calcagna per cercare di strappare una dichiarazione. Veronica Lario dice, alla domanda, ha rivisto qualcosa di sé, del suo matrimonio in questa pièce teatrale? Dice, no, la prego, dice alla cronista del secolo XIX. Si allontana verso il camerino, poi si ferma, si gira e regala alla cronista del secolo XIX questa frase. Non è sufficiente avere dei figli per costruire un matrimonio. E su questo il secolo XIX ci fa tutto un pezzo di mezza pagina. Lario, non bastano i figli per costruire un matrimonio. A Genova per vedere il dramma di una donna ferita. Per quel che riguarda la politica, giusto per chiudere con la politica, segnalo anche un articolo interessante di Sergio Rizzo che riguarda l'onorevole Siliquini, Maria Grazia Siliquini, che è entrata nel ciclone delle polemiche perché dopo essere passata attorno ai giorni della fiducia dai Finiani, tornata al Popolo della Libertà, qualche giorno fa è stata anche nominata nel consiglio di amministrazione delle Poste e molti l'hanno criticata dicendo ecco la ricompensa politica eccetera. Sta di fatto che Sergio Rizzo racconta che le due cariche, cioè parlamentare e CDA di Poste, sono incompatibili. La Siliquini, le Poste e le dimissioni senza tempo, una legge del 1953 che impedisce ai membri del Parlamento di ricoprire cariche di amministratori, presidente, liquidatore, sindaco e revisori in società pubbliche o controllate dalla pubblica amministrazione, tanto che, racconta Rizzo, Enrico Mattei, che allora presidente dell'ENI, appena nominato, si dimise in 3 giorni da Montecitorio. In Italia questa norma viene rispettata poco. Si racconta per esempio dell'ex leghista Dario Fruscio, che per 2 anni è riuscito a resistere come parlamentare e membro del consiglio di amministrazione dell'ENI. E per cui sono scontate le dimissioni dal Parlamento di Maria Grazia Siliquini, ma, scrive Sergio Rizzo, confidiamo che verranno accolte dall'Aula, perché l'Aula deve votare le dimissioni alla velocità della luce, non come invece accade quasi sempre, dove il gioco a rimpiattino nella giunta per le elezioni si protrae anche per anni. Staremo a vedere come finisce questa vicenda dell'onorevole Siliquini. E allora, dopo le informazioni sul traffico, iniziamo con l'economia e l'allarme del presidente di Confindustria Marcegaglia, che dice il paese non cresce, le imprese sono sole. In primo piano. Il paese non cresce, le imprese sono sole. Questo è l'allarme che Emma Marcegaglia ha lanciato ieri nel presentare il programma degli Stati Generali delle Assise, insomma, di Confindustria il prossimo 7 maggio a Bergamo. Ebbene, questo allarme viene poi commentato da vari giornali anche con una serie di interviste. Per esempio il Corriere intervista il leader della CISL Raffaele Bonanni. Nemmeno i lavoratori se la passano bene, la situazione è mortificante, come sindacalista che mi si chiede continuamente di schierarmi da una parte e dall'altra, mai dalla parte dell'urgenza del paese. Per esempio sulla frustata dell'economia non c'è e la vorremmo davvero. Repubblica mette in prima pagina questo allarme di Emma Marcegaglia e lo fa tra l'altro con un retroscena di Roberto Mania, che dice e racconta, in realtà il presidente di Confindustria che ha lanciato questo allarme voleva dire anche qualcosa di più. Emma sfodera le unghie, inutile il fondo antiscalate, del tutto sbagliato creare un fondo per salvare l'italianità delle imprese, non è questo di cui ha bisogno il paese, non è così che si affronta il tema della crescita economica, non è così che si risolve l'emergenza occupazione. La verità è che c'è un immobilismo inaccettabile. Questi, secondo Repubblica, sono i ragionamenti di Emma Marcegaglia fatti con i suoi stretti collaboratori. Dunque è molto di più della denuncia della solitudine degli imprenditori. Secondo Repubblica non è più una crepa ma un vero e proprio fine di una forma tacita di collaborazione tra Confindustria e il governo, questo allarme lanciato da Emma Marcegaglia. che secondo Repubblica ne avrebbe anche per l'opposizione, anche dall'opposizione sui temi dell'economia non incalza come dovrebbe il governo. Per questo gli investitori stranieri si allontaneranno ancora di più dal nostro paese. Questi sono, secondo Repubblica, dei virgolettati attribuiti, insomma degli sfoghi che vanno quindi anche oltre l'allarme lanciato e che Emma Marcegaglia farebbe con i suoi stretti collaboratori. Le risponde in qualche modo Renato Brunetta, il ministro della funzione pubblica, intervistato da Repubblica a pagina 2 da Alberto D'Argenio. Il governo ha risposto bene alla crisi e se aspettavamo industriali per Parmalat, questo è il titolo che dà il via all'intervista a Brunetta, in questi 35 mesi il governo è stato autore di una delle politiche economiche anticrisi migliori tra i paesi industrializzati e l'amica Emma lo sa. Così dice Brunetta, le cose serie hanno bisogno del tempo. In questi 6 mesi abbiamo lavorato al piano nazionale delle riforme, il programma di stabilità da presentare in Europa entro fine mese. L'obiettivo è quello di approvare la legge delega in autunno e fare decreti attuativi nel 2012 per poi vedere gli effetti nella legislatura successiva per quel che riguarda la riforma fiscale. Così dice il ministro Brunetta. Per quel che riguarda la frustata, su cosa punterete, non voglio anticipare nulla se non che ci sarà la frustata economica. Questi dunque i commenti, tra l'altro rimanendo su un tema economico, voglio segnalare che il Sole 24 Ore si concentra, due articoli, uno sul federalismo, i conti locali, la TARSU e le tariffe salvano i bilanci dei sindaci. Il titolo di apertura del Sole di oggi è le tasse occulte dei comuni. Perché? Perché i comuni che sono, non potendo far leva sulle addizionali IRPEF che sono bloccate fino al 2012, allora i sindaci che cosa fanno? Cercano di raggranellare laddove, con quelle tasse che si possono ancora modificare. Una per esempio è la TARSU, quella dei rifiuti, e infatti c'è stato un aumento della TARSU del circa il 15,8% del 2010 rispetto al 2009, un aumento, c'è cioè una variazione dunque in aumento, più 15,8%, ma racconta il Sole, cercano di raggranellare anche sugli asili nido, che sono aumentati in media del 6,6%, sulle tariffe degli impianti sportivi, aumentate del 26,6%, sulle mense, più 4,6%, tutto questo per salvare i bilanci dei comuni. Oh, cosa c'è per segnalare di chiusura? Cose trovate qua e là. Il giornale si concentra sui costi della RAI, lo ha fatto il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi dicendo quanto ci costano i programmi cosiddetti di centrodestra. C'era Sgarbi, e c'era Ferrara, e c'era non so chi. Allora il giornale per contraltare dice ecco quanto ci costano la RAI degli anti-CAV. Ci costa 35 milioni l'anno. Sono esaminati tutti i contratti di Anno Zero, Che Tempo Che Fa, Ballarò, Report, Parla Con Me, Vieni Via Con Me. Insomma, totale 35 milioni. Tra l'altro con una clausola che dice il giornale, un po' bizzarra, insomma, una clausola che era rimasta segreta, che riguarda il conduttore di Ballarò, Floris, che se per qualche, che ha un contratto esterno, se per qualche motivo l'azienda dovesse chiudere il programma, racconta il giornale, per contratto Floris dovrà essere riassunto dalla RAI come caporedattore. Un paracadute invidiabile. E poi i costi, 35 milioni di euro. Che c'è ancora da dire? Niente, vogliamo andare allora allo sport? Beh, lo sport è stata una giornata interlocutoria, insomma hanno vinto tutte le prime tre della classifica. Milan, sì, Ibra, boh, questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Il Milan ha vinto, Ibrahimovic è stato però espulso nel finale, dunque tutto come prima, una giornata in meno. C'è solo da segnalare una strana a Firenze, credo una strana moria di gufi ieri sera, non si sa bene, una popolazione che sono, bisogna avvisare le protezioni animali, insomma. Che dire, voglio chiudere con Rompipallone allora di Genegnocchi. In prima pagina della Gazzetta, Palermo, Delio Rossi non è tranquillo, ieri ha chiesto il permesso di soggiorno temporaneo. Questo Genegnocchi sulla Gazzetta dello Sport. Allora, che dire, noi ci fermiamo per il giornale radio. Vi ricordo il tema del nostro sondaggio, parliamo della Corte Costituzionale che ha bocciato le ordinanze dei cosiddetti sindaci sceriffi. le ordinanze anti-accattoni, contro gli ubriachi, contro i molesti, contro i lavavetri, contro le prostitute. Secondo la Corte Costituzionale, insomma, sono ordinanze da sindaci sceriffi che non vanno molto molto bene. Secondo voi è giusto? Ne parleremo alle 8.30, mentre alle 8.20 per l'intervista avremo il procuratore antimafia Reggio Calabria Nicola Gratteri, nostro ospite. Ora il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.18 minuti. Voglio salutare per la nostra intervista il procuratore Nicola Gratteri. Buongiorno Gratteri. Buongiorno. Procuratore aggiunto alla direzione distrettuale antimafia Reggio Calabria. Tra l'altro è uscito con un nuovo libro, scritto anche questa volta con Antonio Nicaso, dal titolo La giustizia è una cosa seria, edito da Mondadori. Senta procuratore, lei ha la fama di uno che insomma non ha peli sulla lingua e dice quello che pensa anche per quel che riguarda la lotta alla criminalità organizzata. Le chiedo, la scorsa settimana l'ex ministro della giustizia Castelli ha fatto una dichiarazione, a mio modo di vedere, passata un po' in sordina. Ha detto che c'è stata, quando lui era ministro, una trattativa, o meglio un contatto da parte di uomini della mafia nei suoi confronti, erano pronti a dissociarsi in cambio di contropartite, e il ministro, dopo aver sentito eminentissimi magistrati, ha detto di no. La inquieta questo scenario? Guardi, non conosco il caso specifico, perché io non sono stato tra quelli eminentissimi, perché non sono un eminentissimo consultato, se questo è accaduto. Quello che le posso dire è che le mafie hanno sempre cercato contatti con uomini delle istituzioni, cioè le mafie non sono un corpo estraneo alla società, perché se fossero un corpo estraneo alla società sarebbero facilmente abbattibili. La forza e il potere delle mafie è stato quello, sì, di intimorire, di terrorizzare, ma anche al contempo, usando la tecnica del bastone della carota, hanno sempre adottato le tecniche di trovare accordi con uomini delle istituzioni per raggiungere i loro obiettivi. Quindi può darsi che questo sia accaduto. Che sia accaduto anche questo. Senta, in questo libro voi parlate anche delle leggi che servono, per esempio, per contrastare le mafie. Me ne dica una per far capire ai nostri ascoltatori. Sì, noi abbiamo cercato in questo libro di spiegare le alternative soprattutto alle modifiche normative che ci si accinge a, che si sta discutendo, che si stanno discutendo già in Parlamento, nel senso che ad esempio noi abbiamo sentito parlare in questi mesi da più di un anno del processo breve per far diminuire il carico di lavoro nei tribunali, cioè far durare 2 anni il primo grado, 2 anni appello, un anno e mezzo la Cassazione. Allora, noi pensiamo invece che basterebbe informatizzare il processo penale, tipo ad esempio le notifiche fatte con la posta elettronica certificata, tipo chiudere 20 tribunali e riassorbire i magistrati e il personale nel tribunale più vicino, tipo accorpare i tribunali di sorveglianza. Lei si immagina il tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, ad esempio, accorpare a quello di Catanzaro, il tribunale di sorveglianza di Messina, accorpare a quello di Catania. Si possono risparmiare un sacco di uomini, mezzi ed essere molto più efficaci, soprattutto informatizzando il processo penale. Noi ancora andiamo in udienza con 60-70 faldoni, noi ancora notifichiamo 3.000-4.000 pagine per un'ordinanza di custodia cautelare. Basterebbe notificare un CD con l'ordinanza in PDF. Senta, a questo proposito è spuntata anche l'idea della prescrizione breve, cioè gli incensurati abbiano tempi di prescrizione più breve rispetto a quelli che sono magari che hanno una fedina pena lunga. L'idea comunque in sé è giusta o è sbagliata? No, assolutamente. Cioè io sono cioè a me nemmeno per la prescrizione non dovrebbe esistere in uno stato democratico, in uno stato che si vuole definire evoluto, civile, non dovrebbe esistere nemmeno la prescrizione, cioè dovrebbe il legislatore o i governanti che si sono succeduti nel corso dei decenni, nel corso dei secoli, non hanno mai creato un sistema giudiziario proporzionato alla realtà criminale, e non hanno, nel senso che non hanno investito né economicamente né cercando di trovare le soluzioni più semplici del mondo per arginare, per far velocizzare i processi e per creare una scuola, un'università che educhi, che faccia crescere i giovani e formi i giovani. Ma perché dice che la prescrizione in uno stato normale non dovrebbe, in uno stato veramente democratico non dovrebbe esserci? I processi non possono durare all'infinito. No, perché se io ho un sistema efficiente, se io ho un sistema giudiziario efficiente, io non arrivo alla prescrizione. Se io cambio la procedura, se io modello la procedura in base al carico di lavoro e in base a quelle che sono naturalmente le garanzie delle parti, è ovvio che io non ho bisogno di arrivare, non devo arrivare alla prescrizione. Certo. Senta, le chiedo, che cos'è, ci spiega cos'è la processione dell'affrontata, che quest'anno il prefetto di Vibo Valentia ha detto alla processione dell'affrontata, se gli uomini dell'Ndrangheta vogliono portare le statue, le facciamo portare dai carabinieri. Sì, in sostanza è successo questo. Lo scorso anno un vescovo molto coraggioso ha detto basta con questo scandalo, che le famiglie di 'Ndrangheta a suon di euro decidono, fanno una sorta di asta, decidono chi porta la statua a spalla per il paese, che è una forma anche questa di esternazione del potere, cioè le mafie sono presenti dove c'è da gestionare il potere, quindi anche portare la statua a spalla, anche farsi vedere davanti alla processione, anche fare il presidente o il manager di una squadra di calcio dilettantistico è una forma di estensione del potere all'interno del paese. E quindi anche in questo caso, siccome questa festa sostanzialmente era gestita dall'Ndrangheta, il vescovo ha detto basta con questo scandalo e quindi è stata sospesa la processione, è stata fatta eccetera. Oggi il prefetto dice bene, perché il prefetto di Vibo Valentia è una persona molto per bene, molto capace, quindi sono contento che ha preso questa decisione. Senta, ancora due domande, non la voglio fare litigare col vice ministro Castelli, ma insomma la scorsa settimana ha detto un'altra frase che l'ha fatta arrabbiare, ha detto vogliamo eliminare il problema dell'infiltrazione dell'Ndrangheta nell'Expo, negli appalti dell'Expo, togliamo gli appalti, cioè non facciamo partecipare agli appalti le aziende calabresi. E quindi preferiamo noi calabresi a queste affermazioni, preferiamo sorridere, nel senso che dicendo questo, se uno è in buona fede, pensa, nessuno ha capito niente di che cos'è l'Ndrangheta del nord, pensando che arriva una ditta da Platio, da San Luco, da Africo, e dice va a Milano, dice voglio partecipare a questa gara d'appalto sull'Expo 2015. Se invece vogliamo essere seri, noi sappiamo perfettamente, tutti ormai sanno perfettamente, e anche se fino all'anno scorso qualcuno diceva dove a Milano dove l'Ndrangheta, fatemela vedere, ormai ne abbiamo dette tante che non penso ci sia qualcuno che possa dubitare dell'esistenza della mafia a Milano. E allora l'Ndrangheta ha uomini cerniera a Milano, Bergamo, Brescia, Lecco, dappertutto, che sono a disposizione delle famiglie di 'Ndrangheta per partecipare alle gare. Sono lombardi, non c'è bisogno che partano. Con certificato di nascita e di residenza di 5 generazioni. Ora, non vorrei che invece fosse un'ulteriore esternazione di razzismo e di ghettizzazione del sud, perché ricordiamo che al sud anche l'Ndrangheta è una minoranza in Calabria, e ricordiamo che se al nord parlano e scrivono in lingua italiana ci sono state migliaia di insegnanti che sono andati al nord, in Lombardia, in Emilia, in Piemonte, ad insegnare a scrivere e a leggere a tutte le popolazioni del nord Italia, con grande professionalità e con grande accoglienza. Poi se ci sono state forme di razzismo o di tentativo di emarginazione, peggio per chi l'ha adottato, perché si è additato poi per essere quello che veramente è. Procuratore, le chiedo questo in conclusione, da magistrato che effetto le fa sapere che oggi Berlusconi sarà in tribunale a Milano, ci sarà una clac fuori, persone che insomma sosterranno politicamente? Ma guardi, queste cose non mi metterei ad andare lì a preoccuparmi o a dare molto peso, eccetera. Cioè, ognuno fa la sua parte, ognuno cerca di difendersi come può e come ritiene. Non dobbiamo ora impuntarci su questo. Oltre ai processi, noi vorremmo, anziché parlare dei processi di Berlusconi, vorremmo parlare delle modifiche normative delle quali c'è bisogno per uscire da questo pantano. Noi avremmo bisogno di una scuola diversa per formare nuove generazioni. Non stiamo settimane a parlare di Berlusconi, parliamo, facciamo proposte concrete che possono servire ad uscire da questa cappa. Ma lei le fa in questo libro? Intanto io la ringrazio, ovviamente buona giornata a Nicola Gratteri, procuratore antimafia di Reggio Calabria, che ripeto in questo libro con Antonio Nicaso, La giustizia è una cosa seria, edito da Mondadori, parla appunto delle proposte per una giustizia migliore. Ci fermiamo per la pubblicità e meteo, poi nel nostro sondaggio parliamo delle ordinanze dei sindaci sceriffi, così sono state dette, quelle contro gli accattoni, lavavetri, le prostitute, gli sbandati, quelli che usano l'alcol, insomma ce ne sono state anche di creative che la Corte Costituzionale ha in parte bocciato, ha detto non esageriamo, queste ordinanze a volte sono esagerate. Ricordate da noi il sindaco Cacciari, ex sindaco, che disse quella cosa sulle ordinanze che ha fatto scalpore? Cioè, ogni tanto i cittadini rompono le palle e allora i sindaci gli fanno una bella ordinanza. Ve la faremo risentire tra poco. 24 mattino. Allora, 8:34 minuti, parliamo delle ordinanze degli sindaci dovute al pacchetto sicurezza del 2008, quelle ordinanze contro, non so, lavavetri, accattoni, disturbatori, prostitute, ma ce ne sono di svariato tipo di ordinanze che la Corte Costituzionale ha di fatto in alcuni casi veramente bocciato, a dire sono ordinanze che ledono i diritti di libertà. È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? La Corte Costituzionale si è pronunciata sul caso di un'ordinanza di Selvazzano, provincia di Padova, un'ordinanza contro l'accattonaggio, dicendo che è un'ordinanza discriminatoria. Lede il principio di libertà, lede almeno 3 articoli della Costituzione. Insomma, tutti i giornali hanno titolato venerdì la consulta boccia, basta, sindaci sceriffi. Siete d'accordo? I nostri ascoltatori si stanno dividendo esattamente al 50% e ne vogliamo parlare con 3 ospiti. Intanto 2 sindaci. L'onorevole e sindaco di Cittadella Massimo Bitonci della Lega, buongiorno. Buongiorno. Saluto invece da Taranto il sindaco Ipazio Stefano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori e al collega. Sinistra Ecologia e Libertà. E voglio salutare anche il professor Michele Ainis, è un costituzionalista. Buongiorno professor Ainis. Buondì. Ci aiuterà a capire qualcosa. Intanto io voglio partire da quella frase che ha fatto scalpore, uscita su tutti i giornali, l'ha detta qui il filosofo ex sindaco di Venezia Massimo Cacciare ai nostri microfoni. Vogliamo risentirla, quella del sindaco che a volte non ne può più e emette un'ordinanza. Non ne può più contro chi? Contro la rottura dei palle dei cittadini. Guardi, dopo aver fatto 15 anni il sindaco, a tutti getto la croce addosso per quei poverini che si trovano nella situazione in cui mi sono trovato io. Non c'è mica la più pallida idea di cosa significa ogni mattina che ti alzi avere appunto la cosiddetta nostra società civile che ti invade per una o altre problemi di questo genere, no? O perché ha la prostituta in viale, o perché ha il casino del bar sotto casa, o perché ha il mendicante, capisce? Cioè, un esercito di infanti incapace di arrangiarsi su qualsiasi vicenda umana e terrena. Cioè, questi sono i cittadini. A un certo momento gli dici, vabbè, ti faccio l'ordinanza, smettimi di rompermi le palle, cioè non è mica possibile. Insomma, così la vedeva Cacciari. Allora, dai nostri sindaci, onorevole Bitonci, lei forse la vede in modo diverso, ma che ne pensa di questa decisione? Basta sindaci sceriffi? Beh, la trovo estremamente sbagliata, anche perché questa modifica dell'articolo 54 della 267, che prima dava la possibilità di emettere solamente ordinanze contingibili urgenti, è stata richiesta proprio a gran voce da tutti quanti i sindaci ed è nata da una serie di ordinanze fatta da sindaci della Lega, ma anche i sindaci del centro-sinistra. Ricordo come Cacciari, faccio più l'esempio pratico, ha emesso un'ordinanza importante che vietava di portare i borsoni ai WooCompra in giro per la città di Venezia. È stata bocciata. ma ha avuto un ottimo risultato. È stata utilizzata anche da noi nel periodo dei mercati, dei mercatini, e in effetti ha ottenuto il risultato che ci si voleva dare. Quindi, al di là di alcune ordinanze che hanno fatto sorridere la gente, ce ne sono state molte che hanno ottenuto degli ottimi risultati, perché anche questa sull'accattonaggio, per esempio, del Comune di Salvazzano, che è l'ordinanza fotocopia di quella di Cittadella emessa qualche mese da prima, lei, in quanto il sindaco Enoch Soranto è un caro amico, e come succede spesso tra sindaci della Lega, noi ci scambiamo le ordinanze e ce le copiamo un po' uno con l'altro. Ma è un'ordinanza che in effetti, per esempio, da noi ha dato degli ottimi risultati, perché nel giro di qualche mese abbiamo visto scomparire gli accattoni dal nostro territorio. Cioè lei dice, dopo, proprio, anzi succede così, cioè ve le scambiate, nel senso, visto che funziona bene da noi, prendetela in fotocopia e fatela anche da voi. Certo. Perché, e infatti l'ordinanza che è stata bocciata l'aveva fatta lei. Io voglio sentire anche che ne pensa il sindaco di Taranto, sindaco Stefano. Non so se il suo approccio è sempre di queste problematiche da affrontare, cioè i sindaci che affrontano queste problematiche con ordinanze, perché? Perché c'è una carenza della legge, perché bisogna fare così? Allora, innanzitutto non sono d'accordo che i cittadini, voglio dire, diano fastidio, perché quando protestano qualche ragione ce l'hanno, quindi penso che la prima cosa è mettersi nei panni di chi protesta, poi naturalmente, voglio dire, non assorbire al 100% la protesta, ma cercare di parlare, dialogare con i cittadini e fare vedere che ci sono anche i diritti degli altri. Una volta c'è svolto questo compito da parte del sindaco, devo dire che purtroppo fra virgolette, nel senso che poi c'è anche un aspetto positivo, i sindaci rappresentano oggi per i cittadini il primo baluardo, per cui si rivolgono al sindaco per qualsiasi problema, molte volte anche non di pertinenza del sindaco. Allora, se noi abbiamo voluto il sindaco eletto dai cittadini, dobbiamo dare anche al sindaco la possibilità di dare delle risposte ai cittadini, altrimenti si allontana dall'istituzione. Poi una realtà è diversa dall'altra, quindi è giusto che il sindaco debba avere dei poteri per poter dare risposte alle istanze dei cittadini. Naturalmente non secondo le emozioni, ma dopo una riflessione, cioè, un ragionamento, vere, un confronto, voglio dire, serrato con tutte le parti. Io vorrei, professor Ainis, visto che lei è un costituzionalista, e tra l'altro abbiamo ripescato anche un suo articolo nel 2008 che allora uscì sulla stampa, riepilogò, perché spesso si butta anche nel colore, ed è vero, le ordinanze un po' anche più strampalate che ogni sindaco ha fatto contro il bando degli zoccoli da una parte, cioè, ho trovato anche un'ordinanza contro i cigni a Trieste, non ho capito i cigni che combinino a Trieste, però in realtà il problema è molto serio quando si confronta con problematiche dell'ordine pubblico. E allora questi sindaci ora dicono: adesso siamo con le armi spuntate. Insomma, la Corte Costituzionale che ha combinato, professore? Ma ha semplicemente dato voce a un principio dello Stato liberale, mica dello Stato comunista. Diceva Montesquieu: non c'è libertà, non c'è libertà al di fuori della legge. Allora, in questa sentenza la Corte Costituzionale riecheggia un principio di libertà. I cittadini hanno una sfera di libertà la quale può essere limitata, non è che il potere di ordinanza sia stato bocciato completamente, ma deve essere limitata e prefigurata in base a una legge, si chiama principio di legalità sostanziale, e a sua volta la legge deve essere poi conforme a Costituzione. Altrimenti, oltre che questa sfera di libertà di cui ciascuno di noi dispone, viene messa a rischio, come i fatti hanno ampiamente dimostrato, un principio di certezza del diritto, perché se io faccio pochi chilometri muovendomi da una provincia all'altra, vengo a sbattere il muso contro un divieto di cui non sospettavo l'esistenza, e quindi la mia, diciamo, vita di relazione così si muove in un terreno minato. Ora, in questo caso la legge dava un potere sostanzialmente discrezionale, libero, ai sindaci, che infatti lo hanno coltivato con molta fantasia, e questo non è possibile. Ma infatti questo principio di libertà è stato violato, perché dice la Corte Costituzionale: se il divieto di accattonaggio vale in un comune, in quello a fianco no. Allora ecco che ci sono due comportamenti diversi, per cui questo è un... è un vulnus, insomma, che la Corte Costituzionale ha trovato. Sindaco Bitonci, qua l'accusa è quella dei sindaci sceriffi, cioè di usare delle ordinanze anche a scopi elettorali per fare, che ne so, contro gli accattoni, le prostitute. Voi cosa dite di contro? La Corte Costituzionale vuole i cittadini che debbano convivere con prostituzione, degrado, accattoni, lavavetri? Questo è? Allora, io volevo contestare anche quello che dice il professore, perché se noi, a parte io non sono un costituzionalista, io nella vita faccio il commercialista e attualmente il sindaco. E il parlamentare. E il parlamentare. E secondo l'articolo 23, quando si dice che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, secondo questo articolo costituzionale, se viene richiamato, è stato alla base anche della bocciatura di questa ordinanza sull'accattonaggio, noi dovremmo bocciare tutta una serie di provvedimenti che i sindaci fanno dalla mattina alla sera. Per esempio? Qualsiasi tipo di provvedimento di carattere urbanistico, sanzionatorio, le perequazioni urbanistiche che noi facciamo ogni giorno, dove applichiamo magari delle tariffe, delle sanzioni, secondo in base a questa norma di carattere generale, e fa spesso così la Corte Costituzionale, cioè quando vuole bocciare politicamente, perché questa è una bocciatura politica. Di una norma, perché fin dall'inizio questa norma non è piaciuta, perché è partita da ordinanze dei sindaci della Lega Nord, questa è la realtà. E come quando, adesso io lavoro, non voglio buttare o allargare l'argomento, ma quando succede che per esempio viene disapplicato il reato di immigrazione clandestina da parte di alcuni giudici che si richiamano a norme del diritto internazionale o la Carta dei diritti dell'uomo, io dico al nostro professore costituzionalista, allora in questo caso come ci comportiamo quando vengono disapplicate delle norme dello Stato, quindi in base alla legge, in base alle norme generali del diritto internazionale o di carattere umanitario? Quello che succede in Italia, cioè in pratica si era trovata una soluzione perché i sindaci di destra, di sinistra, di centro avessero un maggiore potere, non solamente per ordinanze contingibili urgenti, perché questo è il nodo del problema. E lei dice, la Corte Costituzionale la contingibilità d'urgenza. E si è voluta ha dare contrastato una, politicamente. Un'interpretazione, perché sappiamo che ci sono una parte dei costituzionalisti che erano contrari a questa norma e una parte che erano favorevoli. Io ricordo però a tutti quanti quelli che ci ascoltano che però il sindaco nel territorio, soprattutto dove non esiste una caserma dei carabinieri e dove non esiste la polizia, è ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Allora non si può sempre dare responsabilità ai sindaci in materia della sicurezza e non dargliene i poteri. Vabbè, ma comunque è interessante il fatto che dica lei una sentenza politica. Da qui voglio ripartire, cosa ne pensa il sindaco di Taranto Ipazio Stefano, dopo però le informazioni sul traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, come detto, i nostri ascoltatori si dividono nel nostro sondaggio 50-50, per la verità c'è una prevalenza del 52% di chi dice sbagliata la decisione della Consulta di bocciare queste ordinanze dei sindaci sceriffi, così vengono definiti. Sindaco Stefano a Taranto, anche lei pensa che sia una decisione politica quella della Consulta? Insomma, il suo collega della Lega dice erano chiare ordinanze volute dai leghisti e sono bocciate. No, non credo che sia un fatto politico, ma sia un fatto professionale. Chi fa il giurista interpreta la legge e rispetta quel canale. Io però mi permetto di dire che, per esempio, la legge o i fenomeni non sono uguali su tutto il territorio nazionale. Hanno fatto riferimento all'accattonaggio, cioè la gente che chiede un aiuto. Beh, in una città, se davanti a una chiesa c'è soltanto una persona che chiede aiuto, non è un fenomeno, non è un problema. Ma se in un'altra città ci sta una persona che chiede aiuto, ogni angolo isolato, ogni strada, ogni negozio, questo diventa un problema e al quale il problema va risolto chiaramente con un'ordinanza. Ecco perché è necessario far mantenere al sindaco questo diciamo potere, che non inteso in quanto tale, ma in quanto servizio ai cittadini, di rispetto della volontà dei cittadini. E poi nell'ordinanza, se uno rispetta il principio di concordare con la prefettura, con le altre istituzioni, si possono evitare quei fenomeni folcloristici che si sono manifestati. manifestato in qualche rara occasione, dobbiamo anche dirlo, voglio dire. No, ma io da questo punto di vista devo dire, spezzo una lancia e sto dalla parte dei nostri amici sindaci, in questo caso, professor Ainis, perché, professore, qua effettivamente il sindaco Stefano ci ha detto se in un non si può applicare il diritto secondo dei principi che valgano urbi e torbi, perché se in una città c'è un problema effettivo perché si concentrano, non so, i lavavetri oppure gli accattoni lì, cioè che deve fare un sindaco se non ha neanche un'arma molto democratica, un'ordinanza per dire qui c'è questo problema, io lo devo risolvere in qualche modo, professore? Ma insomma, vedo che mi trovo in assoluta minoranza. Si difenda come sa, con l'arma del diritto, prenda la Costituzione e ci illumini. Dunque, io vorrei intanto ribadire che la Corte non ha bocciato il potere di ordinanza. No, questo è vero. Ha bocciato quell'ordinanza. Ha semplicemente osservato che questo potere di ordinanza dei sindaci deve essere meglio prefigurato dalla legge, altrimenti diventa arbitrio. Questa pronuncia politica, come è stato detto, in realtà si rifà a dei precedenti molto remoti, perché la prima sentenza è la numero 4 del 1957, nella quale viene declinato il principio di legalità sostanziale, che significa non basta la legge, ma la legge deve orientare il potere amministrativo, perché di quello stiamo parlando, il sindaco è un ufficiale del governo. E perché la legge? Perché il cittadino si sente più garantito dalla legge? Perché la legge viene deliberata dal Parlamento, che è o dovrebbe essere organo espressivo direttamente della sovranità popolare, organo nel quale anche le minoranze, come chi vi parla, sono rappresentate. Però, professore, il Parlamento, cioè le ordinanze sono sulla base di una legge, il cosiddetto decreto di sicurezza, votata in Parlamento, cioè che ha delegato ai sindaci. In cui, si dice fai quello che ti pare, insomma, invece la legge dovrebbe, anche perché questo poi consente alla Corte Costituzionale di valutarne la conformità a Costituzione, insomma è una filiera, Costituzione, legge, ordinanza, sì. E si deve tenere. Ora, che poi si possa sentire più garantiti da una decisione presa dal sindaco che dal Parlamento, io capisco che adesso il Parlamento ha perso autorità e prestigio per una legge voluta dalla Lega, da un ministro della Lega che lo ha trasformato in un Parlamento di nominati e che è un vero e proprio scandalo giuridico. Facciamo un sondaggio, vediamo quanti italiani sono affezionati al porcello. Faremo anche quello, no? Intanto voglio sentire Giuseppe da Napoli, che ne pensa, ci ha chiamato. Giuseppe, buongiorno. Io sono a Napoli, quindi il fenomeno accattonaggio, insomma, venite a Napoli e passate 3-4 ore nel traffico di Napoli per rendere conto che cos'è. C'è un'ordinanza. Mi domando solo una cosa, girando per l'Europa, perché tutto questo fenomeno io non lo vedo? Evidentemente là ci avranno sindaci più capaci. Cioè, quale fenomeno non vede l'accattonaggio? L'accattonaggio, ma scusi, abbiamo certamente non lo vedo. Giuseppe, scusi Giuseppe, in Austria abbiamo fatto una puntata, in Austria hanno vietato per legge l'accattonaggio in quasi tutta l'Austria praticamente. E quindi non ho capito, là è una consulta diversa, insomma, non c'è una consulta che stabilisce che c'è un la discussione, appunto, qua hanno fatto le ordinanze e la Corte Costituzionale l'ha bocciata. E io mi domando perché dobbiamo vivere. Io ho fatto un conto di quanto mi costa tutto questo su base annua, perché ovviamente se sto fermo e chi mi ferma, chi chiede le demose, ecco, mi costa 430 euro all'anno. Perché, faccia lei i conti, faccia la moltiplicazione per il numero degli abitanti che ci stanno in Italia e un poco se questo è un costo o non. Ma perché, Giuseppe, l'aggredisco, cioè sono abbastanza aggressivi nel chiedere. Ci sono delle strade che ogni 15 metri c'è uno che la chiede qualcosa, non solo glielo chiede, ma lo affianga per 10-15 metri. Lo pretende, lei, pur di torcerlo da vicino, gli dà qualche cosa, insomma, evidente, no? Quant'è che le costa? Faccia la somma di quando avviene, di quanto è il costo in un anno e mi dica lei se è una cosa normale. Ma lei l'ha fatto? Vorrei pagare in termini, non so, di spesa, però dovrei pagare allo Stato per stabilire che cosa fare di queste persone. Evidentemente c'è anche un tam-tam. Che si dice in Italia è possibile, andiamo tutti in Italia. Oppure dicono Giuseppe da Napoli dai soldi, quindi l'affiancano. No, lei ha calcolato quanto è che spende? 430 euro all'anno. Mannaggia, le dia a qualche consigliere comunale per promuovere una bella ordinanza in comune contro gli accattoni, insomma. Va bene, la saluto. Va bene, grazie a lei. Arrivederci, io intanto mi devo fermare qui. L'ho buttata un po' sul ridere con Giuseppe, ma insomma il problema c'è, quello delle ordinanze dei sindaci parzialmente bocciate dalla Corte Costituzionale. Devo ringraziare i miei ospiti, dal sindaco Massimo Bitonci della Lega, sindaco e parlamentare, sindaco a Cittadella, il sindaco Ipazio Stefano a Taranto di Sinistra Ecologia e Libertà e il nostro costituzionalista Michele Ainis. Grazie a tutti, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè, l'alpino, in regia, felice anche lui oggi per la vittoria del Milan. Ci fermiamo con la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina alle 7:20.